12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. In questa puntata proseguiamo la nostra esplorazione del mondo del lavoro all'estero che abbiamo iniziato la scorsa settimana, in cui abbiamo parlato del mercato professionale canadese. Oggi non ci focalizzeremo su un paese specifico, ma cercheremo di capire piuttosto come sia possibile intraprendere a livello internazionale una specifica carriera, ovvero quella del docente di lingua italiana per stranieri. Nella prima parte della puntata avremo ospite Lorenzo Rocca del CVCL, Centro Valutazione Certificazioni Linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia, con il quale capiremo cosa significa essere docente di lingua italiana per stranieri in Italia, ma soprattutto all'estero, e quali sono le competenze necessarie per poter svolgere questa professione. Nella seconda parte della puntata invece avremo con noi Rita, che ci racconterà la sua esperienza di docente di italiano in Argentina. Nel territorio veneto, come in tutta Italia, negli ultimi anni l'attività di insegnamento della lingua italiana ha avuto una grandissima diffusione, in relazione sicuramente all'aumento dei flussi migratori. Tuttavia, gran parte di questa attività è svolta da associazioni ed enti tramite forme volontaristiche, e quindi non è raro che un giovane che si approccia per la prima volta a questo tipo di lavoro si trovi a farne esperienza in questi termini. Tuttavia, intraprendere la carriera di insegnanti di italiano per stranieri significa orientarsi verso una carriera didattica specifica e che quindi non va confusa con le attività di volontariato che individualmente si possono svolgere. Per insegnare italiano agli stranieri bisogna infatti essere in possesso di una laurea in discipline umanistiche e letterarie o affini, e una volta finita l'università bisogna ottenere una certificazione specifica per l'attività di insegnamento, frequentando corsi organizzati da istituti e scuole di specializzazione. Il possesso di questo tipo di certificazione permette di avere più possibilità di lavorare in Italia presso scuole di italiano per stranieri, CTP, centri linguistici di Ateneo, e per istituzioni pubbliche e private che organizzano corsi di italiano per immigrati. All'estero invece dà maggiori possibilità presso istituti italiani di cultura, dipartimenti di italianistica presso le università, scuole italiane all'estero, scuole pubbliche in cerca di docenti di lingua italiana, sedi delle Università per Stranieri di Perugia, Siena, Unitre di Roma e Società Dante Alighieri, che sono i quattro enti riconosciuti a livello ministeriale per la certificazione linguistica all'estero, e infine presso tutte quelle associazioni che all'estero organizzano corsi di lingua a vario titolo. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il benvenuto al nostro ospite Lorenzo Rocca del Centro Valutazione Certificazioni Linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia. Ciao Lorenzo, benvenuto a 12 minuti. Ciao Giovanna, ciao. Lorenzo, prima di tutto ci racconti chi sei e di che cosa ti occupi e cos'è il CVCL, Centro Valutazione Certificazioni Linguistiche dell'Università di Perugia? Sì, volentieri. Io sono un esperto linguistico dell'Università per Stranieri di Perugia, insegno la lingua italiana ad apprendenti non italofoni dal 2001 e dal 2004 in particolare mi occupo di certificazione linguistica, soprattutto relativamente all'utenza migrante. Il CVCL è uno dei quattro enti di certificazione ad oggi riconosciuti dal MAE, cioè il Ministero degli Affari Esteri, insieme agli altri tre enti che sono la Stranieri di Siena, l'Università di Roma 3 e, unico ad essere privato fra i quattro, la Società Dante Alighieri. Noi come CVCL siamo membri unici per la lingua italiana dell'Associazione Europea ALTE, all'interno della quale ci sono enti piuttosto noti quali Cambridge con l'ISOL, il CPE o il GETE, enti che insieme a noi lavorano, diciamo, di concerto per la ricerca e la costante implementazione di standard. Ecco Lorenzo, il CVCL, che ha sede appunto a Perugia, in realtà ha anche sedi all'estero. Esattamente dove si trovano, ma soprattutto quali sono le attività che svolgono queste sedi? Beh, il CVCL diciamo che è presente in tutti i continenti, esattamente in 54 stati, abbiamo oltre 300 centri di esame e qui in questi centri ogni anno somministriamo circa 15.000 certificati linguistici, coprendo un po' tutti e sei i livelli di competenza previsti dal quadro comune europeo di riferimento del Consiglio d'Europa. E altre attività pure istituzionali del centro, il CVCL, riguardano la formazione dei docenti impegnati nella verifica e nella valutazione delle competenze linguistiche e poi, come dicevo prima, come membri dell'ALTE siamo impegnati in ricerca nel campo del language testing, spesso, a questo ci tengo a dirlo, a sottolinearlo, attuando concretamente le progettualità previste dal Consiglio d'Europa. Lorenzo, hai accennato appunto alla formazione dei docenti di lingua italiana, e che è insomma il tema della nostra puntata. Secondo te quali sono i requisiti e le competenze che un giovane che volesse intraprendere questa carriera deve possedere? Per insegnare l'italiano a stranieri, in assenza di una relativa classe concorsuale in didattica dell'italiano L2, che spero possa diventare quanto prima una realtà, diciamo che la strada quasi obbligata dopo la laurea, quasi sempre in lingue ma anche in lettere, è quella del master, che prima veniva chiamato scuola di specializzazione. Diciamo il master può essere anche inteso come una sorta di vecchia SIS per l'italiano LS e L2, e mi vengono in mente ovviamente il master che abbiamo noi a Perugia, ma anche quello di Siena, anche quello a Venezia della Ca' Foscari, che sono sicuramente ottimi e sono in modalità quasi sempre integrata, una parte a distanza online e una in presenza. Come alternativa al master, ma un gradino sotto in termini diciamo di spendibilità, ci sono i cosiddetti certificati in glottodidattica, come il nostro DILS PG, anche in questo caso rilasciato non solo da noi ma anche dai medesimi atenei che citavo prima. Ecco. Lorenzo, per poter intraprendere questo tipo di carriera professionale, quindi al di là dell'aspetto formativo, che consigli daresti ad un giovane? Quali sono secondo te i canali d'accesso che portano in qualche modo a maggiori probabilità di sbocco professionale? Sì, diciamo il consiglio da dare si lega anche al canale che a mio avviso oggi proprio attualmente presenta maggiori possibilità, e cioè l'integrazione linguistica dei cittadini provenienti da paesi terzi. Perché questo? Perché con l'entrata in vigore a marzo scorso dell'accordo di integrazione, se ne parla ancora poco a dire il vero, ma fra un anno circa ci sarà un impatto sociale piuttosto notevole, la sfida per chi lavora nel campo dell'EDA, dell'educazione degli adulti, è predisporre gli strumenti idonei per favorire l'adempimento degli obblighi di legge da parte del migrante adulto. E sotto questo aspetto i FEI, i fondi europei per l'integrazione, ma anche altre tipologie di fondi, ma soprattutto i FEI, possono realmente rappresentare, a fronte di un'idea progettuale sull'azione 1, lingua di integrazione linguistica per l'appunto, un'idea ben strutturata e che sia almeno in parte innovativa, ecco, i FEI possono rappresentare una fonte di finanziamento importante, tanto per il pubblico, per esempio CTP, quanto per il privato, l'associazionismo sia laico che religioso. Ogni informazione può essere trovata direttamente dal portale del Viminale e ovviamente ai FEI possono partecipare anche soggetti, società e capofila e partenariato che non abbiano una esperienza documentata troppo ampia e diffusa. Ecco. Ecco, quindi sicuramente insomma per un ragazzo l'idea può essere appunto quella di rivolgersi. Sì, al di là del tirocinio ovviamente, del proporsi, dell'iscriversi anche a, noi per esempio abbiamo una mailing list nell'università, l'iscrizione è gratuita e spesso si trovano in questa mailing list offerte, annunci di lavoro, occasioni in Italia e all'estero, ma al di là dell'annuncio spot che può apparire in un sito o come invio in una mailing list, sicuramente l'idea progettuale mi sembra più concreta e mi sembra più fattibile. Certo. Lorenzo, io ti ringrazio per essere stato con noi e per tutti i consigli che ci hai dato. Prego, ci mancherebbe altro. Prego, ci fermiamo per un breve intervallo musicale prima di ritornare in studio con Rita e la sua esperienza lavorativa in Argentina. Chiudo gli occhi e sei un disegno sulla pelle mia, nel disordine mi sorprendo come te a fare previsioni logiche, e tu sospesa qui nell'anima mi accarezzi ogni filo tra le mie labbra e troverai le mie e le tue parole. Tu sospesa qui nell'anima, mi accarezzi, mi colpisci, ti nascondi. E tu che sei la mia curiosità, so che mi aspetterai. Tu sospesa qui nell'anima, puoi fermarti se vuoi. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Oggi stiamo approfondendo il lavoro del docente di lingua italiana per stranieri all'estero e nella prima parte della puntata abbiamo avuto con noi Lorenzo Rocca, che ci ha raccontato di cosa si occupa il Centro Valutazione Certificazioni Linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia in Italia e all'estero e quali sono le competenze richieste ad un giovane che volesse intraprendere questa carriera oltre ai canali d'accesso a questo mondo lavorativo. Ora diamo il benvenuto alla nostra seconda giovane ospite che ci racconterà la sua esperienza di docente di lingua italiana in Argentina. Rita, benvenuta a 12 minuti. Grazie, buongiorno a tutti. Rita, ci racconti per prima cosa chi sei, qual è stato il tuo percorso formativo e che cosa fai oggi nella vita? Allora, io sono Rita, ho 32 anni, sono laureata in sociologia, mi sono laureata nel 2005 all'Università degli Studi di Bicocca a Milano e attualmente sono rientrata dall'Argentina da 15 giorni e sono in cerca di lavoro. Ecco, Rita, a proposito dell'Argentina, come è arrivata l'idea di andare proprio lì? Allora, ci sono svariati motivi. Il primo è che è un paese che già conoscevo, perché c'ero già stata nel 2006 e tra tutti i paesi dell'America Latina che io amo è il paese che mi è sembrato più simile all'Europa e quello in cui fosse più facile trovare lavoro, diciamo. E quindi, poi per un motivo romantico, perché mia nonna è nata in Argentina, è nata a Buenos Aires, per cui io avevo anche voglia di ritrovare un po' le radici. E poi perché avevo un contatto attraverso una docente di un master di Ca' Foscari che io stavo frequentando, il master sull'immigrazione, e avevo un contatto per lavorare con il tema delle donne vittime di violenza, che è, diciamo, l'ambito lavorativo in cui io mi sono concentrata qui in Italia, diciamo. Ecco Rita, quindi sicuramente insomma, le motivazioni erano molte proprio per andare in Argentina. Come hai trovato poi il lavoro di docente di lingua italiana lì? Diciamo che la figura del docente di lingua italiana è molto richiesta in Argentina e io l'ho trovata semplicemente mandando un curriculum ad una scuola di lingue. Ci sono moltissime scuole di lingue e moltissima richiesta di insegnanti privati di lingua italiana. Quindi ecco, sul posto proprio hai fatto una ricerca lì, sì, appunto mandando il curriculum e appunto hai trovato questa opportunità. Hai trovato delle difficoltà? ho trovato delle difficoltà relative alla possibilità di avere un lavoro regolarizzato, perché di fatto per poter avere un lavoro in bianco, come lo chiamano in Argentina, bisogna ricevere una chiamata dall'Argentina stessa quando sei ancora in Italia, per cui bisogna che l'azienda, l'impresa ti contratti, diciamo, quando sei ancora in Italia. Ecco, quindi appunto prima di entrare poi nel paese. Immagino che questo non sia, ecco, così agevole o facile. No, perché l'azienda deve essere iscritta ad un registro specifico e questa iscrizione ha dei costi per l'azienda, per cui raramente l'azienda fa questo tipo di procedimenti, diciamo. Certo. Rita, i tuoi progetti per il futuro? I progetti per il futuro sono per ora di rimanere in Italia e di cercare un lavoro qui. Rita, grazie per essere stata con noi e averci raccontato la tua esperienza, e in bocca al lupo per il lavoro. Grazie, grazie. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. A proposito di insegnamento di lingua italiana agli stranieri, vi segnalo alcune delle certificazioni conseguibili in Italia. DILS, certificazione di primo livello in didattica dell'italiano lingua straniera. Le prove d'esame vengono valutate dal CVCL, Centro Valutazioni Certificazioni Linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia, e potete trovare tutte le informazioni al sito www.cvcl.it. DITALS, certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri. Le prove d'esame vengono valutate dal Centro di Ricerca e Servizi DITALS dell'Università per Stranieri di Siena, ed esistono due livelli, DITALS primo livello e DITALS secondo livello. Potete trovare tutte le informazioni al sito www.unistrasi.it. CEDILS, certificazione in didattica dell'italiano a stranieri. Le prove d'esame vengono valutate dal laboratorio ITALS dell'Università di Venezia. Tutte le informazioni potete trovarle al sito venus.unive.it/ITALS Lab. E sempre in questo sito trovate anche le informazioni per la certificazione di facilitatore linguistico e dell'apprendimento, denominata FILS, valutato anche in questo caso dal laboratorio.